America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti a America 24 da Roma. Mario Platero, continua naturalmente la saga di Snowden, ne parleremo in un'altra occasione, perché oggi voglio parlarvi di un altro dibattito che si è aperto attorno a un personaggio di cui mi sono occupato durante una delle trasmissioni dell'anno scorso, Giovanni Palatucci. Giovanni Palatucci doveva essere un eroe della Seconda Guerra Mondiale, una specie di Schindler italiano. Si diceva che avesse aiutato 5.000 ebrei a fuggire dalle grinfie del regime nazista. Bene, il Centro Primo Levi ha invece condotto un'analisi storica secondo la quale non risulta che abbia salvato tutti questi ebrei. È un giusto o no? Il Museo dell'Olocausto a Washington ha tolto tutti gli elementi relativi alla sua storia. Yad Vashem, il Museo dell'Olocausto a Gerusalemme, dove Palatucci è considerato un giusto, ha annunciato che rivedrà le pratiche. Insomma, è esploso un dibattito, anzi una polemica, perché poi fonti dal Vaticano hanno reagito dicendo che in realtà non è vero, che queste sono tutte delle manovre sotterranee. Di questo ce ne occuperemo di nuovo più approfonditamente in una delle prossime puntate. Intanto vorrei raccontarvi che cos'è il Centro Primo Levi a New York, perché proprio qualche settimana fa ho partecipato a un evento molto interessante, devo dire, che hanno organizzato. Thank you all for sharing this evening with us, and I a personal thank to Daniel Pinet who made it so beautiful. Bene, avete sentito questo saluto di questa serata organizzata dal Centro Primo Levi, una serata dedicata in parte all'omaggio di personaggi come John Elkann, il presidente della Fiat, che ha fatto un po' da chairman della serata, di John Turturro, che è stato premiato. Dall'altra è stata dedicata al ricordo, soprattutto con un messaggio molto affascinante da parte di Stella Levi. Italian Judaism is deserving of what I call a midrash italki. Qui ricorda molte delle attività culturali del centro, ma poi in questa sua lunga chiacchierata davanti a un pubblico di 150 persone e a un certo punto ci ha fatto un racconto di straordinario interesse, perché Stella Levi nasce a Rodi e ci racconta un momento particolare dell'isola di Rodi, che diventa italiana, del Regno d'Italia nel 1912, dopo la guerra italo-turca, e ricorda con gioia come gli italiani avevano portato modernità, allegria, tutto un altro modo di vivere rispetto al periodo sonnolento, arretrato, in cui l'isola si trovò sotto la dominazione dei turchi. Soprattutto mi ha colpito, devo dire, la sua storia personale, perché a un certo punto i nazisti arrivano a Rodi e decidono il 19 luglio del 1944 di deportare tutti gli ebrei, che sono 1800, li mettono su tre navi, li mandano ad Atene, da Atene ci sono i treni, arrivano ad Auschwitz il 16 agosto del 1944, Stella Levi arriva ad Auschwitz il 16 agosto del 1944, non vedrà mai più i suoi genitori, con la sorella riesce a sopravvivere abbastanza per arrivare alla liberazione. Allora, perché questa sua storia è quella di un altro ebreo che ha parlato quella sera, Andrew Viterbi, di cui poi vi parlerò più in là, perché è un personaggio straordinario. Pensate, vive a San Diego, in California, ha creato un codice nel settore delle comunicazioni che è diventato uno dei codici fondamentali per la telefonia cellulare, e dietro il successo di una grande azienda americana, la Qualcomm. Dunque un personaggio, anche lui ormai di età avanzata, che comunque ha fatto in qualche modo una piccola storia a Silicon Valley. Qual è il denominatore comune di queste due persone, che appartengono entrambe a quella che è la mia rubrica che ogni tanto cerco di fare, quella cioè dedicata a persone che a un certo punto, per qualunque ragione, si sono trovate a prendere un biglietto di sola andata per gli Stati Uniti. Più avanti, in prossime puntate, vi racconterò più dettagliatamente la loro storia, ma torniamo alla serata. Thank you, Jeff, for having me here tonight. It's a pleasure to be here with all of you this evening. Ecco, John Elkann, che a un certo punto interviene e anche lui fa un racconto, perché poi questa serata naturalmente è dedicata a Primo Levi, è dedicata a Turturro, che ha interpretato Primo Levi. Elkann ci racconta anche lui una storia molto personale, perché John Elkann è ovviamente di Torino e sua nonna, Carla Ovazza, di una delle più importanti, più antiche famiglie ebraiche di Torino, era molto molto legata, era amica di Primo Levi. E questo suo racconto, devo dire, anche abbastanza struggente, perché lui ricorda come la nonna ogni tanto gli raccontava delle storie che riguardavano questo grande scrittore, che poi tragicamente si suicidò. Si erano conosciuti prima della Seconda Guerra Mondiale e, dice, mia nonna gli aveva insegnato a pattinare sul ghiaccio. Ricorda come Primo Levi, grazie a una recensione del New York Times, divenne un personaggio anche qui negli Stati Uniti. Larry Rivers, un grande artista americano, fece una serie di ritratti di Primo Levi e ricorda come suo nonno Gianni Agnelli, che era un grande collezionista, vide questi ritratti di Larry Rivers. Larry Rivers, tra l'altro, aveva una connection italiana, perché era stato in qualche modo scoperto da una donna straordinaria che ormai non è più con noi neanche lei, Camilla Pecci Blunt, sposata con un americano di una grande famiglia italiana che abitava a New York, era un po' un patron of the arts, tra cui appunto Larry River, ed era amica di Gianni Agnelli, quindi il collegamento era molto diretto. Insomma, Agnelli vide questi dipinti e ne acquistò 3, che si possono vedere al Museo Ebraico di Roma, diceva El Khan, fino al 15 ottobre. This has been a long, circuitous route, my relationship with La Tregua, Francesco Rosi, and Primo Levi. Ecco, qui Turturro ricorda quando Francesco Rosi gli propose di interpretare Primo Levi nel film, appunto, La Tregua, e dice: non avevo ancora letto nulla di Levi, ma ero molto interessato alla sua storia. Dopo aver accettato la parte, ho trascorso 5 anni leggendo tutti i suoi libri, incontrando i suoi familiari, facendo ricerche. Si può dire che abbia seguito un intero corso accademico su di lui. Ci sono voluti 5 anni, quindi, per realizzare il film. Ho dovuto perdere molto peso, ma per me è stato molto educativo. Lo considero tra le cose migliori che ho fatto nella mia carriera. Ci sarebbero 1000 altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, giugno 2013, siamo a un giro di boa per l'anno. La National Public Radio americana ha deciso di pubblicare una classifica delle migliori canzoni di questi primi 6 mesi del 2013. Dunque, nei prossimi giorni voglio proporvi alcune di queste canzoni. Oggi ho scelto The Ambulers, Hiding Out. Da Roma è tutto, Mario Protero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.